Allora, eccoci qui in diretta con dall'altro capo del telefono Peppe di Taranto. Ciao, buongiorno Peppe. Buongiorno a tutti e tutte, è sempre un piacere stare su questa radio. È un piacere per noi sentirti dopo un po' di tempo. Allora, dunque, ecco, ieri ci hanno dato questa notizia che ci sembra rilevante, cioè la nascita di questo comitato, diciamo, unitario operai e cittadini di Taranto per trovare insieme, immagino anche nella lotta, nella mobilitazione, la strada, insomma, per uscir fuori da questa situazione e soprattutto inchiodare padroni e Stato italiano alle loro responsabilità, no? Sì, diciamo che, ecco, sì, se vogliamo iniziare dalla fine, che è sempre importante, questo comitato è un ottimo punto di partenza. Diciamo che chiaramente è nato un po' sulle esperienze politiche precedenti, perché c'è fa parte del comitato di quartiere, fa parte di Copas, fa parte della Schio Tower, insomma, tutti quei soggetti politici, ma soprattutto gli operai e i cittadini, moltissimi ragazzi, perché chiaramente nel marasma generale della settimana scorsa, che ha colto, diciamo, impreparati alcune persone, altri no, meno, eccetera, però nel marasma generale chiaramente si è arrivati a un punto certo, cioè non è possibile assolutamente dividere la città tra buoni e cattivi, tra chi vuole il lavoro, chi non vuole il lavoro, chi vuole l'ambiente, chi non vuole l'ambiente, quindi magari entriamo meglio anche nella questione, e soprattutto non è possibile né lasciare che gli operai vengano lasciati soli, né che gli operai lasciano soli i cittadini, cioè ci vuole assolutamente un dialogo, ma questa cosa è stata abbastanza naturale, poi nella lotta chiaramente avvengono molto più facilmente, cioè le chiacchierate, ma che facciamo, ma che dobbiamo fare, ma è possibile che veramente ci devono passare sulla testa, diciamo, gli operai in questo modo, è possibile che ci devono prendere in giro in questo modo? È possibile che dobbiamo stare in silenzio ancora e subire angherie, eccetera, eccetera? È possibile, d'altra parte, anche le persone, diciamo, noi, non solo noi che siamo più politizzati, ma anche con tutti questi ragazzi che stanno facendo parte di questo comitato, dicevano, ma è possibile che non possiamo fare niente? È possibile che dobbiamo starci in silenzio? È possibile che non dobbiamo prendere parte attiva a questa mobilitazione? Quindi è nato questo comitato che chiaramente, appunto, cittadini e lavoratori di Taranto, vede la questione ambientale, la questione del lavoro, la questione dei diritti in primo piano e cerca assolutamente, come hai detto benissimo tu, di incedere le responsabilità allo Stato italiano e soprattutto Padron Riva, che pochi dicono e pochi sottolineano il fatto che questa persona negli ultimi 10 anni ha fatto degli utili spaventosi, nonostante la crisi o la suddetta crisi economica, ha fatto degli utili spaventosi e ha guadagnato in tasca sua variati miliardi, e quel momento probabilmente che il padrone cominci a pagare, ma a pagare veramente, e cominci a mettere questi soldi sul piatto, anche se lui racconta e millanta, lui o chi per lui, ha già speso tanti soldi per l'ambientalizzazione, è vero nell'1%, ecco, serve ancora il 99%, cominciasse a mettere questi soldi a far sì che appunto ci sia questa benedetta ambientalizzazione da parte dello Stato, e chiaramente anche lì lo Stato non può abbandonare la città di Taranto, lo Stato non può abbandonare gli operai, i lavoratori di Taranto, le famiglie di Taranto, non può abbandonare una città che ha i tumori, e quindi lo Stato ci deve essere, deve farsi da garante. Ha messo sul piatto della bilancia pochi spiccioli, la nostra, cioè, non tanto detta nostra perché tecnici non siamo, ma detta dei tecnici che ci affiancano, perché poi ovviamente in questo comitato ci sono anche tanti tecnici, che è pochissimo, questi 382 milioni di euro di cui si parla, che sono stati stanziati, sono niente, sono come se vuoi aggiustarti una casa con 1000 euro, non ha senso, quindi che cominciasse a spendere i soldi, che cominciasse a essere garante veramente, e che soprattutto costringesse i Riva a investire quello che hanno lautamente guadagnato in questi 10 anni, e sono molto buono a dire questo, insomma. Senti, dunque, hai detto che comunque l'altro giorno un po' la situazione ha preso alla sprovvista tante persone, probabilmente anche tanti operai, e questo lo diciamo anche perché ci è parso di cogliere, soprattutto in alcune dichiarazioni rilasciate dagli operai anche alle TV nazionali, che comunque le mobilitazioni, soprattutto quelle dei primi giorni, fossero un po' teleguidate dai sindacati complici, al punto tale che comunque in fabbrica, insomma, in acciaieria si è continuato a produrre anche tanto, e probabilmente c'è stato un passaggio ulteriore subito dopo le prime 24-48 ore in cui gli operai si sono anche accorti, insomma, di essere stati in parte strumentalizzati. Questo tipo di cosa come l'avete vissuta voi, Peppe? Mi incuriosisce allora, molto. No, vabbè, considera il fatto che, appunto, l'hai detto tu, io questa cosa la vorrei sottolineare. Qui non si parla, cioè, si è parlato di sequestro, chiusura, eccetera. Uno magari immagina come quando sequestrano un bar a Taranto, a San Lorenzo, che vanno a mettere i sigilli. Bugia, i sigilli non sono stati assolutamente messi. Lì va fatto tra venerdì e sabato notte 32 colate, facendo il record di produzione del 2012. Ecco, per capirci come stanno le cose. Quando la magistratura, il giorno, quando la magistratura, diciamo, ha reso pubblico il fatto che l'area a caldo dovesse essere sequestrata, chiaramente i sindacati, spinti anche dal patronato, voglio ricordare che qualche mese fa ci fu una manifestazione dei lavoratori, strumentalizzati dai sindacati, come al solito, a favore della fabbrica, perché chiaramente il processo, cioè, diciamo, l'istruttoria, non è che è arrivata ieri, era un processo che andava avanti, ci sono state varie manifestazioni a favore della mercantilizzazione della fabbrica, eccetera, eccetera, però c'è stata anche la manifestazione degli operai che in 4 mesi sono scesi nelle strade, o anche nelle fasi dei sindacati, perché la fabbrica rimanesse aperta così com'è. Chiaramente quando è arrivata la notizia, i sindacati hanno, cioè c'è stato il parapiglia generale in fabbrica, perché non si capiva che cosa significasse, cioè se arrivasse la finanza e chiudesse, appunto, tipo bar, ecco, per immaginarci. Se invece si dovesse continuare, dalla firma non arrivava nessuna voce, i sindacati sono trovati schiacciati, perché dei nostri compagni dentro l'Ilva ci racconta loro di una scena da inferno dantesco, dove i telefoni si attivano, chiamavano i delegati di fabbrica e dicevano: ma che cazzo sta succedendo, scusate, ma cosa sta succedendo, dove dobbiamo andarci, cioè, ma che sta, qual è il problema? Allora, presi alla sprovvista, sapendo che volendo cercare di mostrare i muscoli e cercando di stare al lato degli operai in tutti i modi, hanno detto: no, uscite dalla fabbrica, la fabbrica la vogliono prendere, cioè, la vogliono chiudere, quindi uscite dalla fabbrica e dimostriamo a tutti quanti che cosa dobbiamo fare, cosa che non è così, cosa che non c'è stata. Sono usciti praticamente solo quelli dell'area a freddo, perché in realtà questo è successo, quelli dell'area a caldo con le comandate, che ricordo anche questi firmati dai sindacati, cioè quando c'è uno sciopero comunque delle comandate devono essere fatte per legge, quelli dei comandati sono rimasti, hanno continuato a lavorare, per cui si è trovata la situazione che da una parte si diceva che l'Ilva stava chiudendo, ma in realtà l'Ilva continuava, e i sindacati dicevano: no, dobbiamo stare in piazza per dimostrare, poi c'è stato tutto questo gioco, non vogliamo andare contro la magistratura, sì, vogliamo andare. Non c'era manco accordo tra di loro, perché la FIOM sembrava che non volesse scendere in piazza, però poi, per non rimanere dietro al carrozzone, ha fatto scendere tutti gli operai. Se, diciamo, in questi anni la gran parte degli operai si è staccata assolutamente, le tessere lo dimostrano, i numeri lo dimostrano, perché abbiamo numeri di vitalizzati bassissimo, altamente basso rispetto alle grandi fabbriche, la Fiat, ma anche Pomigliano. Se questi numeri erano già impietosi per loro, adesso si trovano nella situazione contraria, perché chiaramente il giorno dopo, quando Ferrante, l'attuale direttore dell'Ilva, ha detto che la colata è continuata, eccetera, a quel punto gli operai hanno detto: ma cosa sta succedendo? Sappiamo anche di situazioni che sono arrivate anche allo scontro quasi fisico con i delegati, perché chiaramente sono sentiti presi in giro. Sono sentiti presi in giro dicendo: avete detto che la fabbrica era chiusa, la fabbrica continua a essere aperta. Che cosa volete raggiungere? E quindi niente, in realtà è una situazione molto complicata, per cui hanno indetto lo sciopero di domani, che è sciopero, tra parentesi, che anche lì era stato indicato 24 ore, poi in realtà è diventata una manifestazione di 4, poi non si è capito bene, in cui verranno tutti i pezzi grossi, c'è cioè, addirittura sempre che scenderà la Camus, eccetera, eccetera, a raccontarci che il lavoro va salvato, eccetera, eccetera, e che il ricatto è occupazionale. In realtà non è così, perché molti operai stessi dentro all'Ilva ti dicono e ti fanno ragionare su quali possono essere le possibili alternative, si passa da forni a caldo a forni elettrici, cosa che già si è fatta, si passa alla metallizzazione, il riutilizzo delle persone nella bonifica, perché questo, se bonifica va fatta, si potrebbero riutilizzare gli operai, la riconversione della fabbrica in qualcos'altro, si parla tanto di riciclo, potrebbe diventare, uno l'ha detto, un operaio, io mi permetto perché l'ha detto un operaio, la più grande fabbrica di riciclo di acciaio del mondo. Per cui le soluzioni e le possibilità sono tante. I sindacati invece no, hanno detto: se chiudiamo voi ve ne andate a casa e finisce tutto il gioco, perché chiaramente si sono trovati tra gli incudi del martello. Ricordiamo anche che Riva ha strappato più accordi sindacali nei 15 anni, 12 anni insomma che c'è stato lui, piuttosto che, no scusate, 17 anni che c'è stato lui, piuttosto che tutti gli anni che l'ILVA è stata prima statale e poi semistatale. Cioè l'ILVA è in piedi dal 1969, in tutti questi anni Riva ha strappato molti più accordi con i sindacati piuttosto che tutto lo Stato in quegli anni precedenti, quindi per fargli capire qual era il grado di, cioè, di collusione che c'era tra i tre grandi sindacati e il padrone Riva. Eh sì, questo è chiaramente insomma un fatto importante, e infatti immagino insomma che per le sigle sindacali si tratti esattamente di questo, cioè di non perdere il loro potere anche clientelare in fabbrica, perché poi di questo si tratta. Però ecco, la situazione essendo abbastanza fluida e in un certo senso anche in costante movimento, adesso si aspetta insomma questo riesame del 3, hai detto che c'è questo sciopero, e insomma voi che state assistendo alle assemblee, come vi sembra insomma che possa evolvere la situazione? Perché adesso ormai insomma la miccia si è accesa, e una volta che la miccia si è accesa insomma è possibile anche che gli operai riescano, ecco, a trovare da soli la strada da intraprendere e magari a disilludersi un po' anche dai sindacati stessi, insomma, no? Diciamo che la disillusione è già tanta, no? A livello politico nazionale, a livello proprio di sindacati, partiti, eccetera, lo sappiamo, la crisi di rappresentanza è fortissima, e in questi momenti di lotta chiaramente raggiunge dei punti algidi. Però come dicevi tu, la clientela, il clientelismo è forte, io ti ho fatto entrare, io ti ho fatto lavorare, ricordati di me, appunto le famiglie clientelari, tra virgolette, che sono operati, sono forti. È chiaro che gli operai, diciamo, una cosa è certa, non saranno più attoniti a quello che succede, perché una presa di coscienza, seppur minima, perché poi è chiaro che con 10.000 persone, non parliamo di numeretti, e creare coscienza, cioè non creare coscienza, ma che la coscienza poi si sviluppi, la coscienza politica in 12.000 lavoratori non è così semplice. È chiaro che queste cose vengono accelerate in questi tre, no? I processi vengono accelerati in queste situazioni. E noi come comitato di quartiere, ma in generale siamo molto fiduciosi. È chiaro che però, ripeto, il nostro comitato che si è creato ieri, cioè il comitato di cui facciamo parte che si è creato ieri, sono 100 persone, sono veramente poche. Poi è vero anche che si dice tra gli operai che difficilmente riuscirà di nuovo a bloccare la città, perché non è la città che deve pagare ma è l'ILVA. Lui già ti parla di un altro tipo di blocco, magari, che ne so, lo dico così per dire, il blocco della fabbrica, già sarebbe qualcosa di diverso. È chiaro che si spera che la lotta continui, perché poi la lotta è l'esperienza che è la coscienza e aumenti questa cosa qui. E ci sono buone basi, ottime basi. Però d'altra parte dobbiamo sempre ricordare, e se no facciamo un falso storico, ci sono 50 anni di scelte infami su questa città, che sono state anche accolte da questa città, spesso e volentieri per un tozzo di pane o un fiasco di olio. Voglio dire, la vicenda Cito è emblematica in questo senso, Cito vince perché regalava olio e pane nei quartieri. Qui attenzione, nel senso, da una parte è vero che sta crescendo questa coscienza, dall'altra è vero che la città continua a essere quella che è, in alcune zone. È chiaro che l'equilibrio in questo momento, di questo ne siamo certi, in questo momento è un equilibrio labile, bisogna lavorare politicamente, bisogna stare politicamente nelle cose, appunto dare una chiave di lettura da compagni a tutti gli eventi, in tutte le assemblee con gli interventi, cercando di essere magari meno filosofici e molto più pratici, che queste sono cose sempre che ci diciamo tra di noi, affinché appunto adesso che il vaso di Pandora è scoperchiato, i sindacati sono finalmente nudi di fronte a tutti, che il padrone si sa che è arrivato a un certo punto, che l'inquinamento è stato, diciamo così, ufficialmente, perché in Italia da 10 anni questa fabbrica era la causa dei tumori di questa città, c'è tutto, gli operai sono convinti, bisogna starci, bisogna battere il suono finché è caldo. I segnali sono positivi, detto questo c'è da lavorare, ecco, non è domani che arriva la cosa, insomma. Ecco, siccome appunto abbiamo ragionato e abbiamo detto quali sono i problemi e anche in parte insomma le così chiamiamole contraddizioni di cui purtroppo sono vittime a volte gli stessi lavoratori. Però ecco, siccome anche tra di noi, insomma, forse circola con troppa insistenza questa cosa, e invece magari anche approfondendo un po' di più, insomma, proprio in questi giorni, non credo che davvero sia veritiero il fatto che la maggior parte degli operai dell'Ilva sostanzialmente siano tutto sommato dalla parte del padrone, cioè non proprio, non nel senso netto e vero, reale di questa parola, che però, insomma, più o meno per difendere il lavoro, per difendere l'occupazione, tu alla fine, insomma, condividano la necessità, insomma, che la fabbrica vada avanti così com'è, perché poi, insomma, loro sono i primi a pagarla, cioè, intendiamo, diciamolo chiaramente, insomma, ma se non se ne accorgono loro di una situazione così intollerabile e in definitiva mortale, pericolosa per la salute propria dei propri cari, dell'intera città, di chi ci abita, insomma, ma chi se ne deve accorgere? Io credo che in molti, insomma, gli occhi li abbiano ben aperti rispetto a questo. No, vabbè, ma questa cosa è anche questo, no? Un falso mito, cioè, hai fatto benissimo a sottolinearlo, e tutti gli operai dentro, anche quelli che sono andati a applaudire ieri i capi fabbrica, insomma, i responsabili fabbrica, ieri hanno fatto degli interventi di garanzia, c'è stato un non so se Radio 1 sentivo, c'è stato un carosello di operai che applaudiva e diceva: questi sono eroi, sì, non li dovete toccare, sì. Quelli sono prezzolati, chiaramente, si sa, si conoscono, però anche loro, tutti quanti in questa città hanno un morto per tumore, tutti quanti in questa città sappiamo che l'Ilva inquina, tutti quanti in questa città, nessuno in questa città è contento del fatto che l'Ilva continui a produrre in così, sia per un discorso proprio diciamo morale, ma anche per un discorso, cioè, di tutti i tipi, quello che dicevi tu, non c'è un operaio che è d'accordo col padrone, da questo punto di vista è chiaro, nel senso, non anche quelli che scendono in piazza per dire che è il pane, e ce ne sono chiaramente, non è che ti dicono il pane basta, perché comunque in 10 anni si è ragionato su queste cose, ci sono state manifestazioni di 10.000 persone, i figli di questi operai sono persone che stanno nelle lotte, tra virgolette, chiamiamole ambientali, che poi anche qui potremmo aprire una parentesi gigantesca, cioè la città, da questo punto di vista, il dibattito sull'ambiente, cioè negli ultimi appunto 10-8 anni è forte e chiaramente entra anche nelle case loro, perché non è che stiamo parlando, cioè non è che stiamo parlando di gente aliena, non è che qua stiamo parlando di, che ne so, di un gruppo di persone, è la stronzata, scusate, dire che sono tutti a favore del padrone, assolutamente, e anche quelli che lo sono, perché magari appunto non riescono ad avere il concetto, ma chiaramente no, è dovuto anche al fatto di avere delle notizie false, tendenziose da parte appunto di chi ha guardato i tipi sindacati, ma anche altri, i partiti politici, perché poi non dimentichiamoci che anche in questa città i partiti hanno avuto i loro bel interessi dentro l'Ilva, a partire dal vecchio Partito Comunista, adesso PD, insomma, cioè le clientele sono formate anche lì e sono tante, eccetera, eccetera. È chiaro che in tutte le persone in questa città nessuno è tout court perché la fabbrica rimanga così e basta. Cioè, su questo non ci sono dubbi, assolutamente. Anche quelli che vogliono che appunto dicono no, il reparto a caldo non va chiuso, qualcuno comunque ti parla di abbassare la produzione, perché poi la produzione è altissima perché mi deve guadagnare tanto, cioè per dire anche questo, no? Se la produzione fosse molto minore, come lo era durante la statale, quando l'Ilva era dello Stato, la produzione non aveva questi livelli qui, perché chiaramente era tutto bilanciato. Adesso invece fanno colate su colate e chiaramente, perché la produzione si deve alzare, che li deve guadagnare. Anche loro ti dicono, per esempio, si potrebbe diminuire la produzione, no? Sì. No, perché noi prima avevamo detto anche che, perché poi adesso, insomma, cioè tu hai ragione, perché effettivamente dai dati sembra che la produzione dall'Italsider alla ditta, all'acciaieria di Riva, sia praticamente raddoppiata, con tutto ciò che comporta in termini di infortuni, incidenti, inquinamento, tossicità, nocività, eccetera. Però ecco, non diciamo poi nemmeno che con l'Italsider, insomma, l'aria di Taranto fosse pulita e respirabile. No, cioè, no, ma ci mancherebbe, questo, ripeto, sono 50 anni, questo è un impianto comunque al di là di tutto che è vecchissimo, questo è importante da sottolineare, questo è un impianto vecchissimo, in molte strutture uguale a quelle che come furono create il primo giorno, per cui da questo punto di vista no, è chiaro che non inquina, però era proprio per far capire, insomma, che anche le persone che vengono sotto, come, cioè appunto questa divisione dicotomica tra bene e male, tra chi vuole la chiusura e chi vuole la fabbrica aperta, assolutamente non esiste, certo. Perché in realtà ci sono tantissime sfumature e ripeto, non ci sono operai a favore del padrone che vogliono che rimanga così, tutto così com'è, e nessuno tocchi Caino, assolutamente. Cioè, anche lì ci sono posizioni critiche. Ripeto, il vaso di Pandora è stato scoperchiato, i ragionamenti si fanno, e la cosa importante, ecco, una cosa che vorrei sottolineare, che in questi giorni finalmente, dopo tanto tempo, e sono contento da questo punto di vista, si ragiona per le strade, perché questa è la cosa bella, no? Al di là di tutto, cioè noi finalmente si riesce a fare ragionamenti complessi, anche politici, o ragionamenti anche terra terra, però per le strade, con la gente, c'è un dibattito aperto, e forse è questo il problema più grosso per esempio per i sindacati, perché finalmente chiaramente gli operai stessi cominciano a raccontare determinate cose che sono successe lì dentro, determinate firme che magari ancora non sapevamo, eccetera eccetera eccetera, e per le strade di Taranto si respira il dibattito proprio a livello epidermico. Sì, poi pensa, anche noi che stiamo qui, comunque, insomma, un po' l'onda di questa cosa che tu ci stai raccontando, molto molto parziale, però un po' arriva, insomma, il fatto che sia cresciuto questo dibattito, e che molti operai, anche nelle loro dichiarazioni, tendino comunque a distanziarsi dalle posizioni ufficiali, insomma. No, vabbè, ma quello è chiaro. Ma io ti posso anche aggiungere un'altra cosa, mo è la prima volta che l'Ilva ha un problema di qualsiasi tipo, ma questo è enorme, gigantesco, e per due giorni non esce una dichiarazione di un sindacalista su un giornale locale. Noi questa cosa la scrivevamo ieri in assemblea, cioè né oggi non lo so, perché io personalmente non ho potuto leggere niente, però né ieri né avanti ieri è uscita una dichiarazione. Questo significa, insomma, che già cioè le solite dichiarazioni di cortesia e di simpatia appunto di lotta e dura senza paura, e poi vado a firmare. Questa volta, per la prima volta, almeno diciamo gli operai, quelli più anziani, insomma, che dice è la prima volta che tizio tale o quell'altro, rappresentanti storici del sindacato a Taranto, non hanno detto niente, non si sono fatti belli sui giornali. Quindi anche questo è un segnale al nostro paese, insomma, no? Certamente. Va bene, Peppe, allora, se non hai altro importante da aggiungere, noi ti possiamo anche salutare. Ricordiamo che chiaramente, insomma, comunque la purtroppo nella società e nel mondo in cui viviamo, anche la lotta per la tutela della salute diventa lotta di classe, in fin dei conti lo è, insomma, anche su altri fronti, come quelli, no, rispetto alla lotta contro gli inceneritori, le grandi opere, eccetera. E quindi oggi, purtroppo, a livello di sfruttamento a cui siamo costretti, è un elemento che diventa parte integrante di questa nostra lotta. Mi hai dato un gancio che volevo ricordare, importante, e che è uscito anche questo nelle assemblee, non tanto ieri ma il giorno prima. Quando uno si ammala di tumore, il ricco può andare a Milano, può andare in Francia, può andare in Germania, può andare addirittura negli Stati Uniti e curarsi. Il povero muore a Taranto. Ecco perché è un problema di classe. Ecco perché gli operai lo sanno molto meglio, tra virgolette, di altre categorie, che significa morire di tumore. Cioè, questa è una cosa proprio surreale, nel senso, non è niente di inventato. A Taranto la gente che si può permettere, probabilmente adesso molto poca, però se ne va a Milano, se ne va, eccetera eccetera. La gente che non si può permettere sta qui nell'ospedale, che il signor Vendola vuole chiudere, tra parentesi, vabbè, ma questo è un altro discorso che sarebbe troppo lungo aprire, e muore il tumore. Quindi, cioè, è chiaro che, come dici tu, è un problema di classe anche quello. Per cui è su questo che si sta lavorando, e ripeto, i segnali sono positivi. Adesso, però, tre giorni sono pochi, insomma, una settimana è poca, le lotte non finiscono presto, no? Bisogna... E hanno bisogno di tempo per crescere, sì, certamente. Sì, Peppe, infatti. Grazie davvero. Niente, e tanto, insomma, ci risentiremo sicuramente presto. Infatti, un saluto a tutti e a tutte. Ciao, ciao, ciao. Ciao.